mia fede, qual è prova maggior da io potrei. Una ne chiedo. Occulto, devi ai franchi restar, e a sguardi loro involarti per sempre. Altro che questo, idolo mio, non brami. Chiedi di più, se di più cerchi ancora, tutto farò per te. Basta per ora! Deggio per pochi istanti, caro, da te involarmi. Oh, ti sovvenga che l'amor mio, la vita mia, al fin ti ritrovo, io non credei che perduto così. Che vuoi? Chi sei? Ubaldo? Oh, mio rossor! Oh, come amico trasformato io ti vedo. Apri, beh, apri i lumi e ravvisa te stesso. Or vedi quanto mal convengono a te quei fregi indegni. Su, su, destati ormai, lo scudo e il brando per gloria tua riprendi, e un giusto prar il tuo fallire e vendi. Amico, errai, lo vengo, ma fu dolce l'errore, ma un dolce incanto. Oh, però, sor, non so frenare.